Allora parte adesso la registrazione qui da Cosenza, transizione di fase all'undicesima edizione di Fiera in Mensa. Bene, che cosa possiamo dire di questa giornata? Beh, sicuramente tante cose si potrebbero raccontare, tante storie, tante vicende. Per esempio, ieri sera avete ascoltato una, spero, simpatica diretta con tante interviste a migranti, a esponenti di associazioni, di centri sociali che ci hanno raccontato come vivono Fiera in Mensa. Poi è stata anche raccontata la questione relativa a un piccolo, diciamo così, problema di natura tecnica, ovvero la mensa che scusate, si svolgeva annualmente all'interno della vecchia città di Cosenza, quest'anno è stata spostata nel centro della città, quindi l'area occupata delle Ferrovie della Calabria, delle ex officine delle Ferrovie della Calabria, viene oggi a trovarsi proprio al centro della fiera stessa. Come se non bastasse, un imprevisto spiacevole e ha determinato una modifica, diciamo, strutturale dei piani. Qua mi distraggono, scusate, mi distraggono con la chat. La modifica comunque dei piani, diciamo, di Fiera in Mensa. Infatti Fiera in Mensa, lo diciamo per chi non conosce bene la città di Cosenza, o magari non conosce soltanto ed unicamente questo evento. Fiera in Mensa è un momento di incontro, di scambio e di collaborazione fra più parti, fra associazioni di natura laica, fra compagni, diciamolo proprio apertamente che ci piace questa parola, fra compagni, quelli dagli anarchici ai comunisti, qualche comunista libertario, insomma c'è veramente un po' di tutto, per giungere poi ad aree, diciamo, estremamente lontane da questa visione delle cose. Quindi parliamo anche addirittura di parrocchie, insomma sì, lo so, sembra una cosa veramente strana, e sembra strana anche a noi fondamentalmente, non sappiamo come è stato possibile fino ad ora fare questa cosa, forse ognuno di noi metteva ciò che di meglio aveva in sé e quindi si riusciva per 11 anni a dialogare e a collaborare. Invece ieri è successo un problema tecnico, c'è stato un problema a un tetto di Ethernet e infatti tutta gran parte di quest'area ha come che è una vecchia officina delle Ferrovie della Calabria è in realtà piena di Ethernet, fatta di Ethernet. Sì, una bruttissima cosa, lo dobbiamo dire, lo riconosciamo e ce ne lamentiamo spesso, sempre, e ci pensiamo a che cosa sarà di noi e delle persone che vengono qui. Però c'è da dire sì che l'Ethernet è trattato, c'è da dire che sì, molti edifici della città Bruzia sono ad oggi costruiti anche con questo materiale, un materiale pericolosissimo per la salute di tutti noi. Tuttavia, ieri, qualche giorno fa, un paio di giorni fa, non vorrei sbagliare, insomma, un po' di giorni fa, due probabilmente, ma ripeto, non so se ricordo bene, è accaduto che in una delle associazioni, cioè Stella Cometa, dove si tiene proprio materialmente la fiera, la mensa, scusatemi, mentre nelle altre associazioni, negli altri spazi occupati, si svolgono altre attività da quelle culturali ai dormitori, ai vari servizi, internet, social point, servizio di natura medica e di natura legale e tante altre cose ancora. Ebbene, proprio nel capannone di Stella Cometa il tetto era danneggiato e quindi è stato riparato, un tetto di Ethernet, è stato riparato in maniera, diciamo, apparentemente dubbia e di conseguenza è stata chiamata una assemblea certamente di natura urgente, però sono stati avvisati tutti i membri del comitato di Fiera in Mensa e esponenti per ogni realtà più o meno all'incirca c'erano e quindi si è scelto di spostare la mensa in un altro capannone dove sicuramente anche lì il tetto di Ethernet, un Ethernet trattato, ok, però quantomeno nessuno era andato a manomettere l'esistente e, insomma, quindi quantomeno c'è questa sicurezza. Ebbene, oggi non si capisce bene in che dinamiche, una parte del comitato. Non è, io almeno non l'ho capita questa cosa, quindi la sto dicendo a nome personale questa cosa. Praticamente c'è stato un referto di natura tecnica che ha dichiarato, io però non l'ho letto, non ho potuto vedere questo documento al momento, e sono le ore 20. Al momento, insomma, questo documento dichiarerebbe la agibilità di questo spazio dei capannoni, cioè di Stella Cometa. E quindi, ripeto, alcuni del comitato, non sappiamo bene in che modalità, non lo sappiamo, ha deciso comunque di ritrasportare al capannone dove c'era stato questo danneggiamento, questa manomissione, di ripararlo e di tenere, cioè, lì di nuovo la mensa. E questo è quanto. Ora si sta parlando, non diciamo del più e del meno, si sta parlando, ma io preferivo fare la trasmissione e dire quello che, insomma, è accaduto, quello che ho potuto vedere con i miei occhi, ecco. Quindi prendetela per quella che è questa storia, una storia molto simpatica, molto carina. Poi volano parole e vabbè, staremo a vedere che cosa ne sarà di questo Fiera Immensa. Certamente, momenti di scazzo, va, diciamola così, si sono sempre avuti. Immaginate voi un compagno che si va a rapportare con un cattolico, per dire, insomma, che cosa ne può uscire fuori. Certe volte però non è detto che ci siano sempre degli esiti negativi, insomma, fino all'undicesimo anno, fra i vari scleri, insomma, si è arrivati all'undicesimo anno, voglio dire. E ora vedremo che cosa accade. Io ora vorrei leggere, però, per divagare, insomma, un po' questa cosa, anche perché questa sera, lamentando l'assenza di Guglielmina, lamentando l'assenza di Peppone, abbiamo però con noi Virgi. Ciao Virgi! Ciao a tutti, come va? Tutto a posto? È solo per donne, dicono in chat. È solo per donne, io non ho letto bene. Virgi, tu riesci a capire questa frase che stanno dicendo? No, Virgi non proferisce parola, sta cercando di esaminare questo testo che, per quanto ci riguarda, potrebbe essere scritto anche in aramaico. Non siamo provvisti di occhiali, quindi non riusciamo a vedere che cosa sia scritto sul canale di Hirsch. Oh, bene, Virgi, ti ricordo sempre che siamo in diretta. E insomma, abbiamo aperto con questa parentesi veramente triste e noiosa, però insomma noi confidiamo in Dio. No. E quindi niente, che cosa possiamo dirvi più? A questo punto non ci resta che cazzeggiare come al solito. E ora però io direi di ascoltare un po' di musica per evitare, insomma, questo pesantume, pesantume. E vi ripeto, la storia che avete sentito prima è tutta in evoluzione. Magari sarà uno scazzo che poi rientra. Vabbè, ok, ci sta pure. Però, giusto perché noi siamo, come si diceva ieri sera, anche dei personaggi scomodi, che facciamo giornalismo. No, giornalismo no, che facciamo informazione scomoda, magari, ecco, preferiamo. Insomma, abbiamo preferito raccontarvi questo fatto, questa storiella molto simpatica. Ebbene, io direi che a questo punto è il momento di ascoltare un po' di musica tratta sempre dalla nostra fantastica selezione musicale di Transizione di Fase. E vi ricordo sempre che state ascoltando uno speciale da Fiera Immensa, Transizione di Fase, trasmette da Cosenza, nello specifico dall'area dell'ex officine delle Ferrovie della Calabria tra via Popilia e viale Parco.